È successo che una manifestazione pacifica al 100% durante lo sciopero contro il genocidio a Gaza, fatta in tutte le province della Toscana e ovunque, andata benissimo all'insegna della partecipazione e della pacificità dei cortei, anche a Massa era una manifestazione molto tranquilla. A un certo punto i manifestanti volevano avvicinarsi alla stazione, si sono avvicinati, non ci sono state forzature, né spinte, né sfondamenti, nel nulla. Praticamente sono stati accompagnati dalla polizia dentro la stazione, già aperto le porte, sono andati sui binari, io penso non ci sono stati 5 minuti, anche meno. Tenete presente che c'era lo sciopero dei treni, i treni non passavano, non c'era punti freni, quindi anche la famigerata interruzione non c'è stata. La corsa è finita subito, sono rientrati tranquillamente, dopodiché oggi qui arrivano, prima è arrivata una serie di multe a tantissimi, a qualche centinaio di manifestanti, di 300 euro a testa. Poi è arrivata questa visita di garanzia a 37 persone, con in particolare Paolo Gozzani, segretario regionale CGL, Nicola Del Vecchio, segretario della Camera del Lavoro di Massa e segretario provinciale Elia dell'USV, proprio come additati come, diciamo, i capipopolo di questa manifestazione cruenta, che cruenta non era. Ora, io penso una cosa: noi da subito, quando fu fatto il primo decreto REV e poi il decreto sicurezza, noi abbiamo sempre denunciato che questa roba qui alla fine sarebbe stata usata contro i lavoratori, contro le loro lotte legittime, sia che siano per difendere un luogo di lavoro, sia che siano per difendere l'occupazione, il salario o la pace, come previsto dalla Costituzione, e sarebbe stata usata per metterci un freno con questa soluzione autoritaria. A Massa ne abbiamo avuto la prova plastica, la prova concreta. È successo questo perché, se passerà questo principio, domani sarà un problema per tutti manifestare. Perché mettete in caso una fabbrica decide di licenziare tutti, di chiudere, quei lavoratori lì non saranno neanche più padroni di andare avanti in cancello, perché se no vengono addirittura denunciati penalmente. Una follia, perché manifestare per la difesa dei propri diritti o per la pace nel mondo è previsto anche dalla Costituzione. Quindi io penso che di fronte a questi atti qui non bisogna indugiare, non bisogna avere tentennamenti, bisogna dare una risposta importante. Noi abbiamo deciso di fare una grande manifestazione regionale il 24 a Massa, ma abbiamo già anche deciso che nel momento in cui il giudice esaminerà in via giudizio, qualora decidesse di imputare le persone, di rinviare a giudizio, oggi hanno gli avvisi di garanzia, domani fossero rinviati a giudizio, cioè si procedesse con il processo, ecco, quel giorno lì la Toscana si fermerà per 8 ore e farà sciopero generale. Questo è già deciso e lo faremo sicuramente, perché ripeto, da un certo punto in poi le cose basta, perché così siamo di fronte a una società in cui si è sempre più poveri, si è poveri lavorando, si fanno finanziare e danno soldi alla Robin Hood, alla rovescia, danno soldi a chi ce l'ha e li levano a chi non ce l'ha. Se uno protesta viene addirittura denunciato penalmente. Posso dire una cosa: paradossalmente lì non c'è stato neanche un ragazzo che con un pennarello ha scritto viva me su un muro. Poi uno vede che succede a Milano, dove i trattori vanno lì, occupano la città, buttano bande di fieno, litri di latte, sterco dappertutto, sono accompagnati da parlamentari e nessuno gli dice nulla. A Roma, a Calarenza, manifestazioni con il saluto fascista e nessuno gli dice nulla. Noi lì tranquilli e beati, non abbiamo fermato nulla, perché ci lasciamo dei freni, denunciati penalmente. Se non si capisce quello che sta succedendo, è un problema grave per noi, se non lo capiamo. Noi non siamo disposti a accettare questa cosa, per cui ci faremo tutte le nostre battaglie.